Capitolo 12. Tutto cominciò, in realtà, la sera prima, e la notte Anna la passò senza dormire, con un terribile mal di denti. Quando si alzò, in quel mattino d'inverno grigio e pungente, le parve che la vita fosse triste, monotona e inutile. Andò a scuola d'umore tutt'altro che buono. La guancia era gonfia e il viso le faceva male. L'aula era fredda e piena di fumo, giacché il fuoco stentava ad accendersi e i bambini erano ammassati qua e là in gruppetti tremanti. Anna li mandò ai loro posti con tono più brusco di quanto avesse mai usato, e Ntoni Pai andò al suo posto con la solita andatura impertinente e da spaccone, e Anna lo vide sussurrare qualcosa al compagno di banco e poi darle un'occhiata con una smorfia. Mai, così pareva ad Anna, vi era stato un tale scricchiolio di matite come quel mattino. E quando Barbara Shaw venne alla cattedra per mostrare un esercizio, inciampò nella cesta del carbone con risultati disastrosi. Il carbone rotolò in ogni angolo della stanza, la sua lavagnetta si ruppe in mille pezzi e quando si rialzò, la sua faccia, macchiata di polvere di carbone, scatenò nei ragazzi un uragano di risate. Anna smise di ascoltare la lettura della seconda classe. Davvero, Barbara, disse gelida, se non riesci a muoverti senza urtare in qualcosa, tanto vale che tu rimanga seduta. È davvero una vergogna che una ragazza della tua età sia così maldestra. La povera Barbara tornò incespicando al suo banco mentre le lacrime, mescolandosi alla polvere di carbone, producevano un effetto veramente grottesco. Mai la sua amata e simpatica insegnante le aveva parlato con quel tono e in quel modo, e Barbara aveva il cuore a pezzi. Anna stessa si sentì rimordere un po' la coscienza, ma ciò servì soltanto ad aumentare la sua irritazione e quell'ora di lettura, come pure l'ora spietata di aritmetica che seguì, tutti se la ricordano ancora oggi. Proprio mentre Anna stava bruscamente correggendo gli esercizi, arrivò trafelato Sinclair Donnell. «Sei in ritardo di mezz'ora, Sinclair», gli ricordò Anna con tono glaciale. «Come mai?» «Per favore», signorina, ho dovuto aiutare la mamma a fare un budino per colazione perché aspettiamo gente e Clarice Almira è ammalata», fu la risposta di Sinclair, che pur data con voce profondamente rispettosa provocò un'ondata di allegria tra i suoi compagni. «Siediti e risolvimi per punizione i sei problemi a pagina 84», disse Anna. Sinclair parve piuttosto stupito del tono di lei, ma obbediente andò al banco e prese la sua lavagnetta. Poi passò furtivamente un pacchettino a Joe Sloane dall'altro lato dell'aula. Anna lo colse in quell'atto e giunse subito a una fatale conclusione circa il contenuto di quel pacchetto. La vecchia signora Sloane aveva preso a confezionare e a vendere torte alle noci per incrementare i suoi scarsi proventi. Quei dolcetti erano particolarmente tentatori per i più piccoli e per parecchie settimane ad Anna avevano creato non pochi problemi. Venendo a scuola, i bambini investivano i pochi soldini che avevano nei prodotti Sloan, si portavano i dolci a scuola e, se possibile, li mangiavano e li offrivano ai compagni durante le ore della lezione. Anna li aveva avvertiti che se avesse trovato altri dolci a scuola sarebbero stati confiscati, e tuttavia ecco che Sinclair Donnell, con una faccia da impunito, ne passava un pacchetto avvolto nella carta a strisce bianche e blu che usava la signora Sloan proprio sotto i suoi occhi. Joseph, disse Anna quietamente, porta qui quel pacchetto. Joe, spaventato e imbarazzato, obbedì. Era un monello grasso che arrossiva e balbettava ogni volta che era impaurito. Nessuno parve mai così colpevole come il povero Joe in quel momento. Gettalo nel fuoco, disse Anna. Joe divenne livido. Per favore, signorina, cominciò. Fai come ti dico, Joseph, e non dire neanche una parola in proposito. Ma signorina, sono animò Joe disperato. Joseph, hai intenzione di obbedirmi o no? Disse Anna. Anche un ragazzo più ardito e più sicuro di sé di quanto fosse Joe Sloane sarebbe stato messo in soggezione dal suo tono e dal lampo minaccioso nei suoi occhi. Era una nuova Anna che nessuno dei suoi scolari aveva mai visto. Joe, lanciando uno sguardo mortalmente angosciato a Sinclair, andò verso la stufa. Aprì il grosso sportello quadrato e vi lanciò all'interno il pacchetto bianco e blu prima che Sinclair, che era balzato in piedi, potesse pronunciare una parola. Poi arretrò, giusto in tempo. Per alcuni minuti i terrorizzati scolari della scuola di Avonlea non seppero se si trattasse di un terremoto o di una esplosione vulcanica. Il pacchettino dall'aria innocente, che Anna aveva impropriamente supposto contenesse dolci di noci della signora Sloane, conteneva invece un assortimento di petardi e girandole che Warren Sloane il giorno prima aveva detto di comprare in città al padre di Sinclair Donnell, poiché quella sera si proponeva di festeggiare il proprio compleanno. I petardi scoppiarono in fragore di tuono e le girandole, uscendo dalla stufa, presero a girare follemente attorno alla stanza, sibilando e crepitando. Anna si lasciò cadere sulla sedia, bianca per lo spavento, e tutte le ragazze salirono strillando sui banchi. Joe Sloane, in tutto quel trambusto, pareva immobile, come pietrificato, e Sinclair, che non riusciva a trattenere le risa, correva su e giù per il corridoio tra i banchi. Prillie Rogerson svenne e Annetta Bell fu colta da un attacco isterico. Parve che passassero secoli, mentre in realtà si trattò solo di pochi minuti prima che l'ultima girandola si spegnesse. Anna, ripreso il controllo, corse a spalancare porte e finestre per far uscire il gas e il fumo che riempiva la stanza. Poi aiutò le ragazze a portare Brilli svenuta sulla veranda, dove Barbara Shaw, disperatamente ansiosa di rendersi utile, rovesciò un secchio d'acqua mezzo gelata sul viso e sulle spalle di Brilli, prima che qualcuno potesse impedirglielo. Passò una buona mezz'ora, prima che la quiete fosse ristabilita, ma era una quiete precaria. Tutti capivano che neanche un'esplosione era valsa a mutare l'umore dell'insegnante. Nessuno, tranne Anthony Pye, si arrischiava a sussurrare una parola. Ned Clay, senza volerlo, fece scricchiolare la matita mentre stava facendo un esercizio, colse l'occhiata di Anna e desiderò che il pavimento si aprisse per inghiottirlo. Durante l'ora di geografia, passarono attraverso un intero continente con una velocità che fece loro girare la testa. L'ora di grammatica fu dedicata all'analisi minuziosa di tutto quel che capitò loro sottomano. Chester Sloane, che scrisse odorifero con due F, per un attimo fu indotto a pensare che sarebbe difficilmente sopravvissuto a questa vergogna, sia in questo mondo che in quello a venire. Anna si rendeva conto di essersi resa ridicola e che quella sera al tè dell'incidente si sarebbe riso attorno a molti tavoli, ma questa certezza non faceva che intensificare la sua rabbia. Se fosse stata più calma, avrebbe superato la situazione con una risata, ma ormai era impossibile. Perciò la ignorò, sommergendola in un glaciale disprezzo. Quando Anna tornò a scuola, dopo colazione, tutti i bambini erano come sempre ai loro banchi e ogni viso era chino diligentemente sul compito, tranne quello di Anthony Pye. Di sopra al suo libro, egli sbirciava Anna, gli occhi neri, brillanti di curiosità e di scherno. Anna spalancò il cassetto della cattedra cercando il gesso e sotto la sua mano un topo vivo balzò dal cassetto, sgambettò veloce sulla cattedra e saltò a terra. Anna lanciò un urlo e indietreggiò come se si fosse trattato di un serpente e Anthony Pye scoppiò in un'aperta risata. Poi sopravvenne il silenzio, un silenzio raccapricciante. Annetta Bell non sapeva bene se lasciarsi cogliere da un secondo attacco isterico o no, ignara com'era del luogo dove si era rifugiato il topo. Comunque decise di no. Chi poteva trarre alcun conforto da un attacco isterico trovandosi di fronte a un'insegnante così pallida in viso e con gli occhi così fiammeggianti? Chi ha messo quel topo nel cassetto? Chiese Anna. La voce era bassa, ma fece correre un brivido nella schiena di Paul Irving. Joe Sloane ne incontrò lo sguardo, si sentì responsabile dal sommo della testa alle piante dei piedi, ma selvaggiamente prese a balbettare: No, no, signorina, io no. Anna non prestò attenzione allo sventurato Joe, guardava Anthony Pye e Anthony Pye guardava lei, sfrontato, senza vergogna. Anthony, sei stato tu? Sì, sono stato io, disse Anthony con aria insolente. Anna prese il righello dalla cattedra. Era lungo, pesante, di legno duro. Vieni qui, Anthony. Quello non fu certo il castigo più severo che fosse mai stato impartito ad Anthony Pye. Anna, perfino con l'anima esacerbata com'era in quel momento, non sarebbe mai stata in grado di punire con crudeltà. ma il righello lasciava il segno. E alla fine la spavalderia di Anthony venne meno, sussultò e gli occhi gli si riempirono di lacrime. Anna, colta dai rimorsi, lasciò cadere il righello e disse ad Anthony di andare al suo posto. Sedette alla cattedra in preda alla vergogna e al pentimento, sentendosi amaramente mortificata. La sua rabbia era svanita e avrebbe dato chissà che cosa per riuscire a trovare sollievo nelle lacrime. Ecco dunque a che cosa era giunta, con tutte le sue vanterie. A prendere a bacchettate uno dei suoi allievi. Che trionfo sarebbe stato per Jane e quanto avrebbe ridacchiato il signor Harrison. Ma il peggio di tutto, il pensiero più amaro di tutti, era quello di aver perduto l'ultima occasione per attirarsi le simpatie di Anthony Pye. Non sarebbe più riuscita a farsi accettare dopo quello che era successo. Anna, con quello che da qualcuno sarebbe stato definito uno sforzo erculeo, quella sera ricacciò indietro le lacrime finché non giunse a casa. Poi si chiuse in camera sua e sfogò nel pianto tutta la sua vergogna, il rimorso e la delusione. Pianse così a lungo che Marilla si preoccupò, entrò senza permesso nella sua camera e insistette per sapere cos'era successo. «Il fatto è che devo vedermela con la mia coscienza», singhiozzò Anna. «Oh, è stata davvero una giornata nera, Marilla. Mi vergogno tanto di me stessa. Ho perso la pazienza e ho picchiato Anthony Pye». «Oh, sono proprio contenta di sentirtelo dire», rispose Marilla con decisione. «È quello che avresti dovuto fare già da parecchio». «Oh, no, no, Marilla, no! E non so proprio come farò a guardare di nuovo in faccia quei bambini. Sento che mi sono abbassata davanti ai loro occhi. Non sai come sono stata insopportabile e odiosa. Non riesco a dimenticare l'espressione negli occhi di Paul Irving. Sembrava così sorpreso, così deluso». Oh, Marilla, sapessi quanto ho cercato di essere paziente, di guadagnarmi l'affetto di Anthony, e ora tutto è perduto, e per nulla. Marilla passò la sua mano ruvida e logorata dal lavoro sui capelli scompigliati della ragazza con straordinaria tenerezza. Quando i singhiozzi di Anna si fecero più radi, le disse con grande dolcezza: «Anna, tu prendi le cose troppo a cuore, tutti commettiamo degli errori». Ma la gente li dimentica e di giorni neri ce n'è per tutti. In quanto poi ad Anthony Pye, perché devi preoccuparti se non gli sei simpatica? È l'unico a non apprezzarti. Sì, ma non posso farne a meno. Vorrei che tutti mi amassero e se qualcuno non lo fa mi sento profondamente ferita. E Anthony non mi verrà mai più bene dopo quello che è successo. Oh, oggi mi sono veramente comportata come un'idiota, Marilla. Ti racconterò tutta quanta la storia». Marilla ascoltò tutta la storia e se anche sorrise per certi particolari, Anna non lo seppe mai. Quando il racconto fu terminato, disse vivacemente: «Bene, non darti pena. Ora è passato e domani è un altro giorno e non vi saranno errori, come dicevi tu stessa una volta. Adesso vieni giù a cenare, vedrai che una buona tazza di tè e i bignè con le prugne che ho fatto oggi serviranno a tirarti su». «I bignè con le prugne non servono per un'anima addolorata», rispose Anna con aria sconsolata, ma Marilla prese per un buon segno il fatto che si fosse ripresa abbastanza da adattare alla circostanza una dotta citazione. La tavola, allegramente imbandita per la cena, i volti raggianti dei gemelli e gli insuperabili bignè con le prugne di Marilla, devi ne mangiò quattro, la tirarono su e parecchio. Quella sera fece un bel sonno e al mattino, quando si svegliò, trovò se stessa e il mondo trasformati. Durante la notte aveva nevicato dolcemente, senza sosta, e quella meravigliosa bianchezza che brillava nel sole freddo sembrava un manto di carità che avvolgeva tutti gli errori e le umiliazioni del passato. «Ogni mattina si comincia da capo, ogni mattina c'è un mondo nuovo», canticchiò Anna vestendosi. A causa della neve dovette rinunciare alla scorciatoia per la scuola e quando fu sulla strada pensò che si trattasse di una maliziosa coincidenza. Anthony Pye avanzava arrancando proprio mentre lei lasciava il viale di Green Gables. Anna provò un senso di colpa, come se le parti si fossero invertite, ma con suo indicibile stupore Anthony non solo sollevò il berretto, cosa che non aveva mai fatto prima, ma disse con disinvoltura: «Si cammina proprio male, vero? Posso portarle io i libri, signorina maestra?» Anna Gli consegnò i libri e si chiese se davvero fosse sveglia. Anthony camminò in silenzio fino alla scuola, ma Anna, quando riprese i libri, gli sorrise. Non il sorriso stereotipato che gli riservava di solito, ma un sorriso sfavillante e amichevole. Anthony sorrise a sua volta, o per dir meglio, Anthony di rimando le fece una smorfia. Una smorfia in genere non è ritenuta un atto di tutto rispetto, eppure Anna sentì che se non era ancora riuscita a ottenere l'affetto di Anthony, si era comunque, in un modo o nell'altro, guadagnata il suo rispetto. Quando il sabato successivo la signora Rachel Lynde andò a trovarle, poté confermarlo. «Bene, Anna, mi sa che l'hai spuntata con Anthony Pye, proprio così. Dice che sei brava, dopo tutto, anche se sei una donna. Dice che la lezione che gli hai dato con la bacchetta valeva quanto quella di un uomo». «Non mi sarei mai aspettata di spuntarla a suon di bacchettate», rispose Anna un po' depressa, sentendo che i suoi ideali l'avevano in qualche modo tradita. «Non mi sembra giusto, ecco, sono sicura che la mia teoria della gentilezza non può essere sbagliata». «No, ma i Pai costituiscono un'eccezione a ogni regola. Proprio così», dichiarò la signora Rachel con convinzione. Il signor Harrison, quando sentì la storia, commentò: «Sapevo che prima o poi ci sarebbe arrivata». E Jane mise e rimise il dito nella piaga senza un briciolo di pietà. Capitolo 13. Andando a Orchard Slope, Anna incontrò Diana che stava venendo a Green Gables, proprio là dove il vecchio ponte di legno scavalcava il torrente sotto il bosco stregato. Insieme sedettero ai margini della sorgente delle Driadi, dove minuscole felci si srotolavano come verdi spiritelli dai capelli ricciuti che si svegliano dopo un pisolino. «Stavo giusto venendo a invitarti perché mi aiuti a festeggiare il mio compleanno sabato», disse Anna. «Il tuo compleanno? Ma il tuo compleanno è stato in marzo». «Già, ma non per colpa mia», rise Anna. «Se i miei genitori mi avessero consultata, non sarebbe mai caduto in quel mese. Avrei preferito nascere in primavera. Deve essere delizioso venire al mondo con i fiori di biancospino e le violette. Si potrebbe sempre pensare di essere loro fratelli di latte, ma dato che questo non è il mio caso, non mi resta che festeggiare il compleanno quando mi pare e piace. Priscilla viene a casa sabato e Jane sarà già qui. Tutte e quattro ci incammineremo per i boschi e trascorreremo una bella giornata facendo conoscenza con la primavera. Nessuno di noi la conosce veramente e per incontrarla questo è il momento migliore. E poi voglio esplorare tutti quei campi e quei luoghi solitari. Ho la convinzione che esistano centinaia di angolini bellissimi che qualcuno ha forse guardato ma senza mai veramente vederlo. Faremo amicizia con il vento, il cielo, il sole e quando torneremo a casa avremo la primavera nel cuore». «Sembra davvero carino», disse Diana, che tuttavia diffidava alquanto della magia delle parole di Anna. «Ma non sarà ancora molto umido in certi begli angolini? Oh, ci metteremo delle soprascarpe di gomma». E questa fu l'unica concessione di Anna alla realtà delle cose. «Vorrei che veniste presto sabato mattina, così mi aiuterete a preparare la colazione. Ho intenzione di fare un mucchio di cose ghiotte, tutte intonate con la primavera, capite? Piccoli pasticcini, baci di dama, biscotti caramellati con glassa rosa e gialla e torta di ranuncoli. E poi dobbiamo preparare dei panini, anche se non sono del tutto poetici». Il sabato si rivelò la giornata ideale per un picnic. Una giornata tersa, con il cielo azzurro, calda e piena di sole, con un venticello spensierato che soffiava sul prato e sul frutteto. Ogni altopiano, ogni campo illuminato dal sole era di un verde delicato, costellato di fiori. Il signor Harrison, che stava usando l'erpice dietro la fattoria e sentiva anch'egli l'incantesimo della primavera a scorrere nel suo sangue non più giovane, vide quattro ragazze armate di canestro varcare leggere il limite del suo campo, là dove esso rasentava un bosco di betulle e di abeti. Le loro voci allegre e le loro risate gli risuonarono in fondo al cuore. «È così facile essere felici in un giorno come questo, vero?» stava dicendo Anna, seguendo la sua particolare filosofia. «Proviamo a farlo diventare un giorno memorabile, un giorno di quelli che ricorderemo sempre con piacere. Siamo in cerca di bellezza e ci rifiutiamo di pensare ad altro. Vattene dunque, tediosa preoccupazione. Jane, ma tu stai pensando a qualcosa che ieri ti è andata male a scuola? Come lo sai? Chiese Jane, sorpresa e stupita. Oh, conosco quell'espressione. Sapessi quante volte me la sono sentita sul viso io stessa? Ma scacciala su, da brava. Meno dura e meglio è. Oh, ragazze, guardate quella macchia di violette. È davvero una cosa da conservare nel museo della memoria. Quando avrò 80 anni, se mai avrò 80 anni, chiuderò gli occhi e vedrò queste violette come le vedo ora. Questo è il primo regalo della giornata. Se un bacio fosse visibile, credo che sembrerebbe una violetta, disse Priscilla. Anna era raggiante. Oh, sono così contenta che tu abbia espresso il tuo pensiero in parole, Priscilla, invece di pensarlo soltanto e tenerlo per te. Il mondo sarebbe davvero un luogo interessante, anche se lo è, dopo tutto, se la gente esprimesse veramente ciò che pensa in realtà. Beh, sarebbe un po' imbarazzante se la regola valesse anche per certa gente, disse Jane saggiamente. Forse sì, ma sarebbe solo colpa loro se pensano delle cose brutte. Comunque noi, oggi, possiamo esprimere tutti i nostri pensieri perché penseremo soltanto cose belle. Ognuna di noi può dire tutto quello che le passa per la mente. E questa è la vera conversazione. Ecco un sentierino che non avevo mai visto. Andiamo in esplorazione. Il sentiero era tortuoso e così stretto che le ragazze camminarono in fila indiana, mentre i rami di pino accarezzavano loro il viso. Sotto i pini c'erano cuscini vellutati di muschio e più oltre, laddove gli alberi diradavano e rimpicciolivano, il terreno era rigoglioso di mille erbe diverse. Guarda, quante orecchie di elefante! Esclamò Diana. Voglio raccoglierne un gran mazzo, sono così graziose! Come mai queste cosine aggraziate e piumose hanno un nome così imponente? Chiese Priscilla. Perché la persona che per prima le ha chiamate così o non aveva fantasia o ne aveva da vendere, rispose Anna. Ehi, ragazze, guardate là! Là c'era uno specchio d'acqua bassa nel terreno boscoso, al centro di una piccola radura dove terminava il sentiero. Con l'avanzare della stagione era destinato a prosciugarsi, mentre al suo posto sarebbe cresciuto un fitto viluppo di felci, ma ora era una pallida superficie scintillante, tonda come un piattino e chiara come il cristallo. Un cerchio di svettanti giovani betulle la circondava e ai suoi margini crescevano delle felci basse. Che bello! Esclamò Jane. Balliamo tutto attorno adesso come ninfe del bosco, gridò Anna, lasciando cadere il canestro e tendendo le mani. Ma la danza non fu delle più riuscite, perché il terreno era paludoso e a Jane sfuggirono le soprascarpe di gomma. Non si può essere una ninfa del bosco quando si devono portare le soprascarpe, commentò. Bene, dobbiamo dare un nome a questo posto prima di lasciarlo, fece Anna, cedendo all'incontestabile logica delle cose. Ognuno suggerisca un nome, poi lo tireremo a sorte. Diana? Lo stagno delle betulle, suggerì Diana. Il lago di cristallo, disse Jane. Anna, in piedi dietro di loro, implorò Priscilla con lo sguardo di non compiere un ulteriore misfatto con un nome del genere. E Priscilla fu all'altezza della situazione con lo specchio luccicante e Anna alla fine decise per lo specchio delle fate. I nomi furono scritti su strisce di corteccia di betulla con una matita che l'insegnante Jane cavò fuori dalla sua tasca e collocate nel cappello di Anna. Quindi Priscilla chiuse gli occhi ed estrasse uno dei nomi. Lago di cristallo, lesse Jane trionfante. E lago di cristallo fu. E se Anna pensò che il caso aveva giocato al laghetto un brutto tiro, tenne la cosa per sé. Spingendosi attraverso il bosco, che cresceva oltre, le ragazze sbucarono nel verde pascolo, situato dietro la casa del signor Silas. Attraversatolo scoprirono un sentiero che conduceva su per i boschi e decisero insieme di esplorare anche quello. La loro ricerca fu premiata da una serie di gradevoli sorprese. Dapprima, rasente il pascolo del signor Sloane, si videro sovrastare da una volta di alberi di ciliegio selvatico tutti in fiore. Le ragazze si tolsero il cappello e si inghirlandarono i capelli con fiori soffici e vaporosi. Poi il sentiero girò ad angolo retto e si tuffò in una foresta di abeti così fitta e oscura che avanzarono in una penombra di crepuscolo, senza vedere né uno spiraglio di cielo né un barlume di luce. «È qui che vivono gli spiriti malvagi del bosco», bisbigliò Anna. «Sono sbarazzini e maliziosi, ma non possono farci alcun male perché è loro vietato in primavera. Ce n'era uno che ci sbirciava accanto a quel vecchio abete, tutto contorto. E non avete visto quel gruppetto in cima al grosso fungo maculato che abbiamo appena lasciato alle nostre spalle? Le fate buone invece vivono sempre nei luoghi assolati». «Come vorrei che esistessero le fate», sospirò Jane. «Non sarebbe bello poter esprimere 3 desideri ed essere sicuri che si avvereranno? O anche uno solo? Che cosa desiderereste in un caso simile? Io vorrei essere ricca, bella e intelligente». «Io vorrei essere alta e slanciata», disse Diana. «Io vorrei essere famosa», disse Priscilla. Anna pensò ai suoi capelli e poi rinunciò a quel desiderio, pensando che non ne valesse la pena. «Vorrei che fosse sempre primavera nel cuore di ognuno e in tutta la nostra vita», disse. «Ma questo», osservò Priscilla, «non sarebbe come desiderare che il mondo fosse paradiso?» «Solo una parte del paradiso. Nelle altre parti ci sarebbero sempre l'estate e l'autunno, sì, e anche un pochino d'inverno. Penso che talvolta potrei desiderare campi scintillanti di neve. E anche ghiaccioli in paradiso. E tu, Jane?» Io non lo so», rispose Jane con un certo disagio. Jane era una brava ragazza, frequentava la chiesa, cercava coscienziosamente di non venir meno alla sua fede e credeva in tutto ciò che le avevano insegnato, ma non pensava quasi mai al paradiso e comunque non più dello stretto necessario. «L'altro giorno Minnie May mi ha chiesto se in paradiso indosseremo ogni giorno il vestito della festa», grise Diana. «E tu non le hai detto di sì?» fece Anna. «Misericordia, no! Le ho detto che lassù non penseremo affatto ai vestiti». «Oh, io invece credo di sì, almeno un pochino», ribatté Anna con serietà. «Ce ne sarà di tempo in tutta l'eternità per dedicarne un pochino anche ai vestiti, senza trascurare le cose più importanti. Sono sicura che indosseremo tutti degli abiti meravigliosi, anzi, credo che sarebbe più giusto dire uno splendido abbigliamento. Io almeno per qualche secolo mi vestirò di rosa. Ce ne vorrà di tempo prima che me ne stanchi. Mi piace tanto il rosa e in questo mondo, con questi capelli, non posso mai indossarlo».